America 24 di Mario Platero. And thank you to the chairman of the Export-Import Bank, Fred Hochberg, for having me here today. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Avete sentito il presidente Obama che ringrazia Fred Hochberg, il presidente dell'Exim Bank, l'istituzione del governo che dà garanzie all'esportazione e finanziamenti alle aziende americane che debbono esportare. Perché ha aperto con Hochberg? Beh, perché è stato ospite di questo signore a un grande convegno sulle esportazioni americane, dove ha approfittato per lanciare un suo piano. Ha lanciato ieri il presidente una sfida commerciale in 5 fasi, appunto, sul fronte dell'esportazione, che finirà per mettere sulla difensiva le altre grandi potenze industrializzate, in particolare, io credo, quelle europee, che oggi stanno riducendo i loro bilanci di investimento per l'esportazione, hanno regole più rigide anche per i finanziamenti. 95% of the world's customers and the world's fastest growing markets are outside our borders. Il 95% dei clienti del mercato potenziale è fuori dagli Stati Uniti d'America, dice Barack Obama. We need to compete for those customers. Tutti gli altri paesi, tutti i nostri concorrenti competono per questo 95%, dobbiamo competere anche noi. Per la prima volta il presidente ha lanciato una strategia onnicomprensiva che mette in gioco il Dipartimento di Stato, il Pentagono, una gran quantità di istituzioni pubbliche, ma anche istituzioni private e burocrazia pubblica, ed ha annunciato formalmente un viaggio nella regione del Pacifico la settimana prossima. Barack Obama andrà in Indonesia e in Australia, sono i mercati, ha detto, di maggiore crescita. This morning I signed an executive order. Che cosa ha fatto Barack Obama? Ha firmato un ordine esecutivo, questo è il suo annunzio, in cui cerca di raggruppare per la prima volta tutte le risorse disponibili del governo americano in un unico progetto, e dunque ha annunciato la creazione di un nuovo gabinetto di consiglio. Non solo, ha nominato alcuni importanti manager americani, ad esempio il presidente della Boeing, il presidente della Xerox, in un comitato invece di consiglio privato, ed ha lanciato un programma di aiuti finanziari per le piccole e medie aziende. Ha chiesto infine di rivedere le misure che controllano l'esportazione nei confronti di paesi instabili. L'obiettivo, ha detto il presidente, è quello di mantenere invariata la nostra sicurezza nazionale, ma di non penalizzare esportatori che non producono, non provocano alcun rischio per la nostra sicurezza nazionale. Insomma, un programma a tutto campo. Dobbiamo domandarci come reagirà l'Italia, o forse dovremmo anche dire l'Europa, a questa offensiva americana. Abbiamo con noi in linea Alessandro Castellano, amministratore delegato della SACE, l'equivalente dell'Exim Bank, l'istituzione con cui Barack Obama aveva aperto il suo discorso, e dunque giriamo a lui questa domanda di fondo. Ma noi abbiamo reagito come l'Exim Bank già a partire dallo scorso anno, con un programma che ha incrementato notevolmente le esportazioni, e in mancanza di una capacità da parte del sistema bancario ci siamo resi disponibili a supportare ancora maggiormente le esportazioni. Per cui i 13 miliardi con cui abbiamo chiuso il 2009 per quello che riguarda macchinari ed impianti, contro circa i 20 miliardi dell'Exim Bank, paragonando le due economie, mi sembrano, voglio dire, un chiaro segnale che l'Italia, quella del Made in Italy, sta ancora performando molto bene. Ecco, però ci sono più rigidità per il nostro sistema rispetto all'Exim Bank, per lei per esempio? Ma la rigidità, diciamo, maggiore è quella che l'Exim Bank è una banca, per cui ha programmi sia di garanzia che di funding, di impiego diretto, mentre la SACE è una società assicurativa, per cui deve essere naturalmente intermediata dalle banche. Questo ci crea di fatto qualche problema da riscontrare, anche però che per supplire a questa problematica il Ministero dell'Economia ci ha concesso già dal mese di luglio, ed è stato finalizzato nel mese scorso, un programma per il quale, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, riusciamo di fatto ad erogare credito così come fa la Exim Bank americana. Ecco, se dobbiamo parlare di uno sforzo d'insieme a livello europeo, esistono dei dati che ci consentono di avere una proiezione di quella che è l'attività, la forza d'urto europea davanti a questa sfida degli Stati Uniti, che è una sfida allineata poi con quella di Cina, di India, di Brasile, ovviamente di Giappone? Ma io credo che l'Europa abbia preso e stia prendendo più corpo un'idea di un'Europa federale, ma con delle linee strategiche, delle priorità che devono essere messe insieme. Ad oggi ci sono dei lati deboli dell'Europa che sono rappresentati dal fatto che vengono ancora considerati export in area euro le esportazioni che avvengono tra i paesi, diciamo i 27 paesi europei. Credo che una riflessione in relazione all'export, in relazione a paesi che si stanno affacciando come Brasile, Russia, Cina, India, che sono i nuovi esportatori, debba essere naturalmente fatta. Quindi lei mi dice che non c'è un dato statistico di export che riguarda l'area euro nel suo insieme da confrontare con l'export americano nel suo insieme? No, i dati diciamo europei sono dati inquinati da delle forti differenziali fiscali che portano export italiano dirottato su paesi con tax rate inferiori come Lussemburgo, Olanda e Svizzera, e questo storicamente ha reso più difficile la lettura di questi dati. Quello che probabilmente l'Europa deve fare in termini diciamo di riposizionamento del proprio export è considerare, avendo chiaro che i tassi di crescita maggiori saranno nei paesi BRIC e oltre i BRIC, anche paesi cosiddetti nuovi, e che lì ci saranno probabilmente le migliori performance negli anni a venire, che questo riposizionamento geografico deve in paesi naturalmente geograficamente più lontani trovare anche l'Europa politicamente più presente e commercialmente. E quindi andiamo più nelle Filippine che in Canada, più nell'area del Pacifico, nel Brasile, che nei grandi paesi industrializzati? Assolutamente, io credo che l'Asia rimane il paese con o il continente con i tassi di crescita più importanti, ma ci sono anche nuove aree molto importanti come l'area del Mediterraneo, l'Africa subsahariana, lo stesso Middle East, l'America Latina, in particolare Brasile, paesi che per esempio hanno una forte deriva anche di tradizioni culturali e di immigrazione con l'Europa, con l'Italia stessa. Questi paesi dovranno essere oggetto di una politica commerciale, ma anche una politica molto più tesa a rafforzare i rapporti commerciali tra queste aree. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli qui su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. È uscito il nuovo album di Gary Allan, Get Off on the Pain. Il cantante country racconta in queste canzoni la tristezza della sua vita dopo aver perso la moglie Angela. Si suicidò nel 2004 e ancora, dice, non si è ripreso. Dedichiamo a lui questa canzone molto introspettiva, Loving You Against My Will. I don't wanna hurt nobody, don't wanna make nobody cry. I don't wanna do wrong, I don't wanna do wrong, I don't wanna tell no lies. I'm loving you against my will, loving you against my will. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.